Hai visto il mare stanotte com'è bello, è un lago scuro fra il cielo e l'orizzonte, scuro come i tuoi occhi che mi guardano partire, e dentro me c'è già la voglia di tornare. Amore mio, che vuoi che sia un giorno, un anno, se tu sei qui e mi resti ad aspettare, mi guadagno il pane come tutti fanno, per ogni figlio che è rimasto in mezzo al mare, per ogni figlio che è rimasto in mezzo al mare.